meditate or contemplate the seven factors of enlightenment. E lui stesso gli fu consigliato dai suoi compagni, quando era malato, di meditare e contemplare i sette fattori dell'illuminazione. And in both instances it seems that it did help. E in entrambi i casi sembra che ha avuto il suo aiuto. So there's no specific exercise of healing the body. Quindi non c'è nessun esercizio specifico per guarire il corpo. So the exercise that I'll be doing is really taken from a more Western tradition, or Western tradition. E quindi gli esercizi che sto per fare sono più presi dalla tradizione occidentale. Or at least that's where I learned it. O almeno questo è quello che io ho imparato. And then there's another exercise I take from the Tibetan tradition. E poi c'è un altro esercizio che è preso dalla tradizione tibetana, which will remind you of Reiki, for instance. Che vi potrà ricordare il Reiki. If you know the Japanese form. Se ne conoscete la forma giapponese. But that doesn't mean that the body is not important for the Buddha. Questo non vuol dire che il corpo non sia importante per il Buddha. He says that a healthy body is necessary for meditation. Lui dice che un corpo sano è necessario per la meditazione. And he gives exercises that are more to do with developing the right relationship to the body. Lui dà degli esercizi che hanno più a che fare con lo sviluppare una retta relazione con il corpo. And these are three exercises. Ci sono tre esercizi. First of all, it's to look at the impurities of the body. Il primo è di guardare le impurità nel corpo. Secondly, it's to look at the concept of beauty. Il secondo è di guardare al concetto di bellezza. And thirdly, to see how much we're dependent on the body for pleasure. E il terzo è vedere quanto siamo dipendenti dal corpo per il piacere. So we'll begin with those exercises. Quindi cominciamo con questi esercizi. And then we draw the goodwill that we developed this morning, but into the body. E poi manderemo la benevolenza che abbiamo sviluppato stamani dentro al corpo. So let's begin with contemplating the impurities of the body. Cominciamo quindi col contemplare le impurità del corpo. So, as I mentioned, certain parts of the body or qualities of the body. Come ho detto, alcune parti o qualità del corpo. Just catch your reaction to that. Cercate di catturare la vostra reazione a questo. So it may be on one of them anyway. It might be a sense of fear comes up. Può darsi che ne venga fuori un senso di paura. In one of them. In un caso. Ecco. But the rest, I think, will you'll be able to touch the feeling of disgust. Quindi in un caso potrebbe venire il senso di paura, ma se no di solito viene fuori una sensazione di disgusto. Perhaps. Forse. Yeah. So, just as I mention these parts, you know, you have to be really attentive to how, to what the immediate response is. Via via che io nomino queste parti dovete stare molto attenti per vedere qual è la risposta. Ok. So, grease on the head. Il grasso sulla testa. Tears. Lacrime. Wax in the ears. Cerume degli orecchi. Wax. Nasal fluid. Fluido nasale. Saliva. Catarrh in the throat. catarro nella gola. The contents of the stomach at the moment. Il contenuto dello stomaco in questo momento. If they came out, we would call it vomit. Se viene fuori, lo chiamiamo vomito. Contents of the small intestines. Il contenuto del piccolo intestino. Diarrhea. La diarrea. The bowels. I visceri. Ah. And stools. E le feci. Urine. I vostri occhi. No, no, urine. Come urina. Oh, sorry. L'urina. Your eye. How to destroy an exercise. And try again. And sweat. Sudore. So, sweat. So now go back to the one which raised some sense of disgust. Torniamo a quello che ci ha fatto venire un qualche senso di disgusto. And just stay there for a minute and just explore that sense of disgust. E stiamo lì per qualche minuto esplorando questo senso di disgusto. Is it necessary? È necessario. So the next contemplation is one of beauty. La prossima contemplazione è sulla bellezza. So beauty is very much a social construct. Per lo più è un costrutto sociale. So, just see what you say to yourself. Guardate quello che vi dite a voi stessi. Now, just look in the mirror. Look at your face in the mirror. What do you say to yourself? Guardate la vostra faccia in uno specchio. Che cosa vi dite? How do you rate it according to beauty? Che valutazione vi date nei riguardi della bellezza? So, very few people are happy with their face, huh? E molti pochi sono quelli che sono felici della propria faccia. Ah, but the face is just holding all those senses. Ma la faccia contiene tutti i sensi. Ah, can you see it as a vehicle? Can you see it as a vehicle? Lo potete vedere come un veicolo. Ah. So it's not necessary to determine whether it's beautiful or not. Quindi non è necessario determinare se è bella o no. The problem is, of course, that the sense of beauty has some effect upon our self-esteem. Il fatto è che il senso di bellezza ha effetto nel determinare l'autostima. So this is all part of judging ourselves. E quindi è una parte del giudicarsi. Can we just see the face as a face? Possiamo vedere la faccia solo come una faccia? To do its work, it doesn't have to be beautiful. Per fare il suo lavoro non ha bisogno di essere bella. So in the same way you can look at your whole body in the mirror. E così allo stesso modo potete guardare a tutto il corpo nello specchio. So in the same way just be aware of how you judge your body. e nello stesso modo siate coscienti di come giudicate il vostro corpo. So remind yourself it doesn't have to be beautiful to do its work. E ricordatevi che non ha bisogno di essere bello per fare il suo lavoro. Just being content within one's skin. Siate semplicemente appagati dentro la vostra pelle. The third contemplation is to do with how important the body is in giving us pleasure. La terza contemplazione riguarda come è importante il corpo per darci piacere. And we said that underneath all attachment there lies this anxiety and fear. Abbiamo detto che sotto a tutti gli attaccamenti c'è ansia e paura. So, consider what is worse for you. What's the worst thing could happen to your body? E quindi esaminiamo qual è la peggior cosa che può capitare al nostro corpo. Going blind. Diventare cieco. Going deaf. Sordo. Paralyzed. Paralizzato. So, it's a case of recognizing that attachment to the body also brings a lot of fear underneath it. E quindi è il caso di riconoscere che l'attaccamento al corpo anche provoca molta paura. So we know that people with disability can also live full lives. E sappiamo anche che le persone disabili possono vivere per un'intera vita. Ah, but it takes time to get used to a disability. Ci vuole tempo per abituarsi alla disabilità. These exercises undermine the idea of possessing a body. Questi esercizi diminuiscono l'idea di possedere un corpo. Ah, my body. Il mio corpo. But at a deeper level, of course, there's identity. I am the body. Ma a un livello più profondo anche l'identità. Io sono il corpo. So we say, I have a headache. E infatti diciamo, ho il mal di testa. But I am feeling ill. Ma io sto male. So these phrases, we just repeat them to ourselves and accept their truth value. E quindi ripetiamo queste frasi a noi stessi ed accettiamone il valore di verità. This body is subject to disease. Questo corpo è soggetto a malanni. This body is of a nature to fall ill. Questo corpo è destinato ad ammalarsi. This body has not gone beyond sickness. Questo corpo non è ancora andato oltre le malattie. This body is subject to aging. Questo corpo è soggetto all'invecchiamento. This body has not gone beyond aging. Questo corpo non è ancora andato oltre l'invecchiamento. This body is now in a process of aging. questo corpo è ora in un processo di invecchiamento. This body is subject to death. Questo corpo è soggetto alla morte. This body has not gone beyond death. Questo corpo non è ancora andato oltre la morte. This body will die. Questo corpo morirà. So now, undermining these wrong identities with the body. Quindi, minando questa identità sbagliata con il corpo, we can now develop the right relationship. Possiamo sviluppare la giusta relazione. So this body is a vehicle. Quindi questo corpo è un veicolo. The Buddha says this is the best place to be in order to become fully liberated. Il Buddha dice: questo è il miglior posto dove essere per diventare completamente liberati. Because here we have this mixture of joy and unhappiness. Perché qui abbiamo questo mix, questo misto di gioia e infelicità. And the intelligence to find our way out. E l'intelligenza per trovare una via di uscita. So we have to acknowledge that we can't be here without this body. E quindi bisogna riconoscere che non possiamo essere qui senza il corpo. Everything we know comes through the body. Tutto ciò che conosciamo arriva attraverso il corpo. We create relationships through the body. Creiamo relazioni attraverso il corpo. We act, we create karma, good karma, through the body. Noi agiamo e creiamo il karma positivo, attraverso il corpo. So it's just recognizing the preciousness of the human form. E questo è per riconoscere la preziosità della forma umana. So now before we turn the goodwill into the body, ora prima di portare la benevolenza dentro al corpo, we can just spend a moment apologizing to it. Possiamo passare un attimo scusandoci con esso. For having mistreated it in various ways. Per averlo maltrattato in vari modi. So we can repeat these little phrases. Possiamo ripetere queste piccole frasi. Whatever harm I have done to you. Qualunque male io ti abbia fatto. In thought, word or deed. In pensieri, parole o opere. Intentionally or habitually. Intenzionalmente o per l'abitudine. And even unintentionally. O anche senza averne l'intenzione. I'm sorry for it. Mi dispiace. And I determine from this day on. E io prendo la determinazione da oggi in poi. To treat you with due care and respect. Di trattarti con la dovuta cura e rispetto. So now we can begin to turn this metta towards the body itself. E ora possiamo iniziare a rivolgere la metta verso il corpo stesso. See if you can find some phrases which direct the metta towards the body. Guardate se trovate qualche frase che dirige la meta verso il corpo. May you be free of sickness and disease. Possa tu essere libero da malattie e malanni. May you be well and strong. Possa tu essere star bene ed essere forte. See if you can find one phrase. Cercate di trovare una frase which contains your blessings for the body. Che contiene le vostre benedizioni per il corpo. So now you can start by just putting that at the heart center. E ora potete cominciare mettendo questo nel centro del cuore. And just radiate it out to the whole body. E irradiarlo fuori a tutto il corpo. Some people like to use a sense of warmth. Qualcuno usa un senso di calore. Or a sense of coolness. O altri un senso di freschezza. Some people like to use color. Alcuni usano il colore. Whatever works for you. Qualunque cosa che funzioni per voi. So let's take our time and just go through the body. Prendiamoci il tempo di andare attraverso tutto il corpo. Let's begin at the top of the head, the hair and the scalp. Cominciamo dalla cima della testa con i capelli e il cuoio capelluto. Now just follow the skin all the way down the body. E poi seguiamo la pelle giù per tutto il corpo. Coming back to the head. Ritornando alla testa. Come down into the skull. Entriamo dentro al cranio. So, saturate that with your loving kindness. E quindi saturiamolo con la nostra benevolenza. And again, visualizing the skeleton, go all the way down the body. E poi, ancora, visualizzando lo scheletro, scendiamo giù per il corpo. Coming back to the head. Ritornando poi alla testa. So come down now into the brain. Discendiamo dentro al cervello. Pour your loving kindness into that area. Versiamo la nostra gentilezza amorevole in quell'area. And again now, go down the whole nervous system. E ancora, scendiamo giù per tutto il sistema nervoso. Just see the blue veins running, the blue nerves, excuse me, yeah, thank you. The blue nerves just running down the body. Visualizziamo i nervi che scendono giù per tutto il corpo. Don't forget the spine. Non ci scordiamo della spina dorsale. Returning to the head. Ritorniamo alla testa. And see if you can just visualize there the muscles around the face. E cerchiamo di visualizzare i muscoli che stanno intorno alla faccia. And again. E ancora. Fill them with your loving kindness. Riempiamoli con la gentilezza amorevole. And follow the muscles all the way down the body. E seguiamo i muscoli giù per tutto il corpo. Coming back to the head. Ritorniamo alla testa. Bless your eyes. Bless your eyes. Gli occhi. Bless your eyes. Ah, benedicete gli occhi. Bless your ears. Benedicete gli orecchi. For these are the senses. The senses. Tutti i sensi. Bless your nose. Quindi il naso. Bless your mouth, your tongue. Benedicete la bocca e la lingua. Bless your throat, the voice. Benedicete la gola con la voce. When we come into the main part of the body, e poi arriviamo alle parti principali del corpo, we can bless each organ individually. Possiamo benedire ogni organo individualmente. If you know them or know where they are. Se voi sapete dove sono. But you can also just have a sense of filling the space with your loving kindness. Oppure potete avere semplicemente un senso di riempire questo spazio con la vostra gentilezza amorevole. So do as you will, coming down into the chest. E fate come volete e arriviamo dentro al torace. But don't include the heart. Ma non includiamoci il cuore. centering on the heart itself. E poi centrandosi sullo cuore stesso. So offer your loving kindness. Offriamo la nostra gentilezza amorevole. And again, just follow the blood down the body, up the body. E poi, ancora, seguendo il sangue, su e giù per il corpo. Come down to the midriff, the liver and stomach area. Arriviamo alla parte centrale con lo stomaco e il fegato. And down into the abdomen. E poi giù nell'addome. So we have various systems. Qua ci sono diversi sistemi. The intestinal, urinal, sexual systems. C'è il sistema dell'intestino, quello del rene e l'urina e il sistema sessuale. And finally, drawing that attention back to the heart center. E poi riportiamo l'attenzione al centro del cuore. And just offering a sense of gratitude to the whole body. E semplicemente offriamo un senso di gratitudine a tutto il corpo. Just keep saying thank you. E semplicemente dicendo grazie. So now we can open up to other energy. E ora possiamo aprirci ad altre energie. This is the meaning of Reiki. Questo è il significato di Reiki. Ki is the same as chi or prana. Ki è la stessa cosa di chi o prana. And Rei means other.